testo negativo come il mio fattore, sì. RH0 nella scena, doppia H. Non a caso ho sempre detto che non ero un rapper, ma vuoi dir giuro molto meglio di qualsiasi trapper. Con la rima hip hop che non puoi negare, e che se chiami merda non la puoi annegare. Scrivendo sempre senza alcun interesse, da 20 anni sono la N e la doppia S, che confondete spesso con il mio gemello. Lui la mano che scrive, io sono il cervello. Lui quello in silenzio, io quello che sputa. Lui sempre in disparte, io quello che scruta, ma con la stessa lingua fatta per reccare. La vostra invece sembra fatta solo per leccare i culi che vi garantiranno un futuro. Se la tua rima è pop, la mia mangia fanculo. La tua rima fa boom, la mia rima è un flop. La tua rima è boom boom, la mia rima è hip hop. La tua rima fa boom, la mia rima è un flop. Se la tua rima è boom boom, la mia rima è hip hop. La musica salvate più vita, da penicillina, durante polmonite, e voi che facite, vaccanite e aspellite, sotto a tunnelate di cazzo e cazzo che non dite, ed ogni volta l'estremunzione a sto dito, i recchi arrezzenuti strapp che sta dinamite, oneste da sempre senza futuro, ma tenchi copertina di disca appiso mura. E ne metti mano fista, ma quando fazzo nu disc sti bomb mi disannisc. E manco mano fista, ma quello che scrivo vorrista da quelli pizza senza artista, perché qua se fanno disc d'ora i minorenne, quando non avrebbero avuta manchi maggiorenne. Però tutto parla e se fanno conclusione, pure i polci te hanno tosse, figura amici che ghiuna. La tua rima fa boom, la mia rima è un flop. La tua rima è boom boom, la mia rima è hip hop. La tua rima fa boom, la mia rima è un flop. Se la tua rima è boom boom, la mia rima è hip hop.